tempi tecnici di comunicazione, ci spostiamo anche se di poco, quindi da San Giovanni a Crevalcore, la vicinanza e allo stesso tempo la zona di confine nella nostra provincia tra Bologna, Ferrara e Modena, porta come protagonista una realtà per l'inizio di stagione 2024. Con noi tre teatri per te, di cui abbiamo dato anticipazione anche sul finire del 2023, però oramai imminente è l'inizio ufficialmente. Sarà giovedì 18 gennaio alle ore 21 presso l'Auditorium Primo Maggio, la direzione artistica di Alex Carpani, che è qui in diretta telefonica con noi. Buongiorno Alex, tanti auguri. Buongiorno, tanti auguri anche a voi e a tutti gli ascoltatori di questa mattina. Finalmente ci sentiamo, anche se già ci conosciamo, nuovamente in diretta. Io a fine stagione ho dato così da solo qualche anticipazione per quanto riguarda il 2024 in partenza a Crevalcore. Con te faremo un approfondimento, insomma, anche con uno sguardo a quello che è stato a fine anno 2023 nella parte di stagione da settembre a dicembre. Com'è andata, Alex? Ma guarda, noi abbiamo avuto una presentazione, abbiamo organizzato un evento il 15 novembre per chiamare e condividere, insomma, con tutti gli amici del teatro e con tutte le persone curiose e interessate alla nostra stagione teatrale, presentare appunto tutto il programma 2024 che inizierà da giovedì prossimo, dal 18 gennaio. Quindi fino adesso abbiamo acceso i motori, diciamo, certo. Così, abbiamo svolto tutta la campagna abbonamenti che ci sta dando molte soddisfazioni, le persone stanno rispondendo molto bene, abbiamo anche proposto varie formule interessanti, insomma, che danno la possibilità di comporre una specie di menu alla carta, ecco, per lo spettatore, perché al giorno d'oggi è molto importante anche essere molto, come posso dire, modulari e dinamici nelle nostre proposte per consentire alle persone di fare le scelte migliori per le cose che a loro piacciono di più. Quindi c'è molta attesa e molta trepidazione per il primo spettacolo che sarà giovedì. E c'è anche tanto impegno da parte vostra. Beh, io da ex atleta e anche da appassionato ai tempi della vera pallacanestro andavo a seguire le squadre sin dalla ruota, che è il riscaldamento tipico prima dell'incontro agonistico cestistico, e ho chiesto anche a voi com'è andato questo momento di riscaldamento della ruota a metà campo, perché da lì si capiscono tante cose e indubbiamente l'entusiasmo, l'impegno e la qualità è presente in questa stagione. I nomi sono tra i più di richiamo, se vogliamo, anche è un bel parterre de roi di cui ci parlerai a breve. Come si comincia e quando si comincia? Allora, cominciamo giovedì 18 gennaio con uno spettacolo che si chiama Lina's Rhapsody con Massimo Wertmüller e Nicoletta Della Corte, e saranno sei spettacoli che si articoleranno nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, e si finirà il 20 marzo con uno spettacolo di Lella Costa. Il primo spettacolo diciamo, è dedicato ad un aspetto di Lina Wertmüller che non tutti conoscono. È un'altra diciamo, prospettiva, un altro punto di vista di questo di questa artista poliedrica che ha rappresentato un segno importante nel cinema, non solo italiano ma anche internazionale. Non tutti sanno infatti che la cineasta era un'appassionata di musica e anche un'autrice di musica ed ha avuto rapporti di amicizia e di collaborazione con grandi musicisti da Morricone a Nino Rota, cantautori come Iannacci. Quindi la testimonianza resa in scena, restituita da un attore diciamo di fama come Massimo Wertmüller, che tra l'altro è il nipote di Lina, e attraverso la voce di Nicoletta Della Corte disegnerà un mosaico di emozioni, di esperienze dell'universo Lina Wertmüller meno conosciuto attraverso, diciamo, il trebignon della musica. Quindi sarà un approfondimento molto curioso, molto interessante, che ci restituirà un artista veramente a tutto campo. E il 31 gennaio continueremo con uno spettacolo che vedrà in scena Fabio Troiano, accompagnato da due musicisti, che si chiama Racconti neri, altre storie di Pepe Carvaglio. Una storia straordinaria di un personaggio di invenzione, ma che potrebbe avere, diciamo, come posso dire, delle esperienze anche reali, di vita reale, nel senso che sappiamo bene che ci sono a volte delle vite che sono state vissute da personaggi reali che sono straordinarie, surrealiste, no? Per tutto che quello sembrano che hanno romanzi, infatti. Esatto, sembrano romanzi in vita reale. Ecco, questo è un romanzo che porta in scena questo personaggio pieno di esperienze agli opposti, insomma, prima attivista politico comunista, poi agente segreto della CIA e poi esperto di enogastronomia, insomma un mondo veramente ricco in cui pescare, che in scena Fabio Troiano farà rivivere in maniera molto brillante, in maniera molto, molto profonda, anche con, diciamo, un dialogo continuo tra la parola e la musica. Il 13 febbraio continueremo con Violante Placido, che porterà in scena Quantum One. Che cos'è Quantum One? È uno spettacolo che parla dello spazio, del cosmo, attraverso i rumori, i suoni dello spazio. Voi sapete che da alcuni anni stanno registrando anche i rumori dello spazio. E quindi un musicista che si chiama Andrea Vettoretti ha elaborato questi suoni e li ha manipolati e, diciamo, ha utilizzato questi suoni nella sua partitura musicale per creare un universo sonoro sopra il quale poi Violante Placido ha innestato in testi le parole, diciamo, tratte soprattutto dagli scritti di Carl Sagan, che era un grandissimo astrofisico scomparso qualche anno fa. E quindi questo spettacolo è un viaggio immaginifico nelle profondità dello spazio siderale, del cosmo, questa grandissima astronave dove ci troviamo tutti, no? In continuo movimento, che non sappiamo da dove proviene e dove andrà. E che non conosciamo ancora in tutti i suoi dettagli. Anzi, assolutamente, assolutamente. Quindi sarà un viaggio immersivo, un viaggio multimediale, multisensoriale, sarà accompagnata in scena da tre musicisti e sarà uno spettacolo veramente molto suggestivo. E continueremo il 21 febbraio. Lo facciamo nella seconda parte della nostra conversazione, perché mi sto appassionando anch'io e sto vivendo dalle tue parole queste anticipazioni. Quindi, con una identikit per Lina Wertmüller, interpretata dal nipote Massimo Wertmüller, in una sfaccettatura, in un dettaglio musicale, con Nicoletta Della Corte, a seguire Fabio Troiano per questa visione letteraria di trame e di plot per personaggi realmente esistiti, si arriva a questa prima parte in conclusione con Violante Placido e un'avanguardia elettronica musicale e allo stesso tempo un viaggio reale e concreto nell'astronomia. Queste sono un po' gli ingredienti in sintesi di questi primi tre spettacoli. Ho intuito, ho dato una sintesi, anche se non è un dono che mi appartiene, abbastanza attinente. Molto, molto calzante e molto, molto efficace. Allora, ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo per la seconda parte di programma di Crevalcore, tre teatri per te. Grazie Alex, a tra poco. A tra poco. I've seen children starving, other people driving fancy limousines. I've seen people laughing, other people digging their own graves. I've been where the sun has never kissed the earth, where little children walk around with guns fighting for rebirth. Some people say you should have faith, some others don't believe in what you say. How can you let us sit and pray? How can you watch us waiting for the day? Where have you been all of these years? Oh Lord, have you forgotten about our tears? Oh Lord, where have you been all of these years? Oh Lord, have you forgotten about our tears? Mettiamo come colonna sonora, se vogliamo, ideale, inventata dal Breakfast Club, questo brano che ci porta tra le stelle dei Dining Rooms per Schema Record, tra il soul e il jazz e un tappeto elettronico. Per quanto riguarda questa mattinata che sta svoltando sul sereno nonostante le temperature invernali, e siccome ci conosceremo e ci vedremo, già ci conosciamo con Alex Scarpani, perché il menù di questa prima parte, poi anche della seconda parte a Crevalcore, è quanto mai interessante. E detto questo, prima che io abbia motivo di dimenticare, perché è importante per le ascoltatrici e gli ascoltatori, alcune informazioni logistiche, tipo se ci sono formule di abbonamento, se vi sono possibilità particolari e tutto ciò che può essere anche un'informazione, sì, mi tocca di dire la parola online per quanto riguarda il programma, Alex. Sì, certo. Allora, intanto sul sito del Comune di Crevalcore gli ascoltatori troveranno la stagione con tutte le informazioni, le date e i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. Intanto vi dico che abbiamo due formule principali, che sono l'abbonamento a 6 spettacoli e l'abbonamento a 3 spettacoli, e poi abbiamo anche un carnet di 4 biglietti con un prezzo, diciamo, promozionale, che possono essere 4 biglietti di spettacoli diversi o dello stesso spettacolo, ed è stato pensato un po' per i gruppi di amici che vogliono andare a teatro insieme e non hanno l'abbonamento, oppure anche per un regalo che può essere fatto per altre persone. I prezzi sono molto molto convenienti, siamo più o meno intorno ai 40-45% in meno rispetto agli stessi spettacoli visti in teatri di città, quindi c'è la possibilità di vedere e di godersi lo spettacolo in un spazio scenico moderno con 400 posti a sedere, con un palco molto grande e con la possibilità, perché no, anche di incontrare gli artisti, perché non abbiamo, diciamo, ingressi separati o muri divisori, ci piace anche questo clima informale, familiare. Del bello della provincia. Esatto, loro si prestano anche ovviamente a concedersi un po' dopo lo spettacolo, e anche questa è una cosa che a noi piace, ci piace un po' coccolare i nostri spettatori. Aggiungo anche alcune informazioni logistiche importanti: abbiamo un parcheggio amplissimo all'esterno dell'auditorium, qui non ci sono né barriere architettoniche né difficoltà a parcheggiare, e perché no, uno può decidere di passare una serata qui a Crevalcore, andando magari a mangiare in una trattoria tipica e poi godendosi uno spettacolo e facendo qui un'esperienza un pochino diversa dal solito, perché sappiamo che spesso in città bisogna partire con molto anticipo, sì, per trovare il posto della macchina oppure guardare gli orari del treno o dell'autobus. Qui questi problemi non ci sono. Quindi siamo un pochino... Per i consigli in trattoria, poi anch'io sono molto pratico di Crevalcore, quindi nei dintorni ne abbiamo. Potrai darli anche tu. Certo, indubbiamente. Noi intanto procediamo invece artisticamente, parlando con Emilio Solfrizzi in questa seconda, chiamiamola seconda parte, anche se è sempre inizio 2024. Procediamo nella sintetica sinossi degli spettacoli, Alex. Sì, allora, mercoledì 21 febbraio ci sarà lo spettacolo L'anatra all'arancia con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. È un classico del teatro degli ultimi decenni, che è stato rappresentato in molti paesi europei ed è, se vogliamo, una specie di Guerra dei Roses in versione teatrale, anche se la storia è un po' diversa. Quindi, diciamo, colpi bassi a non finire, l'animo umano che può essere portato all'estremo e raggiungere anche punti di cattiveria inenarrabile, ma poi alla fine si trova un equilibrio, diciamo, vogliamo chiamarlo cosmico per legarci anche all'astronomia. Però in questo caso abbiamo commedia e prosa. Ecco, e poi questo equilibrio poi trova un suo filtro in quello che è l'amore, che riesce come sentimento di forza a creare la coesione e creare la serenità finale. Due attori veramente bravi, insomma, Solfrizzi poi lo conosciamo molto bene, sia in ambito teatrale che cinematografico. Poi avremo il 5 marzo Stefano Massini con l'interpretazione dei sogni. Massini è un grande personaggio del teatro contemporaneo, che ha ricevuto premi anche internazionali ultimamente, anche un personaggio televisivo che tutti gli ascoltatori conoscono benissimo, e porterà qui a Crevalcore uno spettacolo che è una continuazione di un lavoro che lui ha intrapreso 10 anni fa sugli scritti di Freud e sull'interpretazione dei sogni. Ah, perfetto, quale migliore interpretazione? E quale migliore luogo se non lo spazio scenico per narrare una galleria di personaggi e di situazioni fantasmagoriche, surreali, che solo la mente umana può creare e produrre. Quindi ci saranno veramente situazioni senza confini, senza limiti prestabiliti, in una narrazione anche questa multimediale, in cui anche qui parole e musica diciamo collaborano in maniera molto stretta, grazie poi alla forza evocativa e al potere interpretativo di un grande attore, di un grande personaggio come Mattia. E poi concluderemo la nostra stagione con un gradito ritorno dopo qualche anno, cioè quello di Lella Costa, che porterà in scena Il cuore di burattino. Ovviamente ci riferiamo alla storia universale e senza tempo di Pinocchio, ma quello che Lella Costa, per la regia di Gabriele Vacis, porta in scena è un Pinocchio, diciamo, più contemporaneo, il Pinocchio che deve, che dice sì le bugie, ma che deve anche difendersi dalle bugie. E le bugie del nostro tempo sono quelle che ci circondano e ci bombardano ogni giorno, le fake news, sì. le personalità multiple che si possono acquisire attraverso social media e tutto quello che è l'informazione che a volte non ci permette di avere un quadro preciso della realtà e di dove sta la verità e dove sta la finzione. Ovviamente con lo spirito sottile, raffinato e intelligente di Lalla Costa faremo anche qui un viaggio. Se vogliamo, questa stagione è all'insieme dei viaggi, all'interno dell'animo umano e di tutto quello che ci circonda. E come sapete bene, come sanno gli ascoltatori, il teatro è e rimane una magia, rimane l'unica arte non riproducibile, quindi quello che accade accade sul momento, ogni volta è diverso perché ogni volta gli attori interpretano emozioni e parti in maniera diversa e ricevono dal pubblico un'emozione che può essere ogni volta diversa, quindi è un'arte che nasce e si fa sul momento, e quindi essere partecipi di questa cosa, perché il pubblico è partecipe, parte dello spettacolo, è molto importante in un periodo come questo in cui l'arte viene spesso, diciamo, confezionata, preconfezionata. Sì. Sì. Quindi l'invito a tutti gli spettatori, non solo il teatro di Crèvecœur, ma è di uscire di casa e di fare questa fatica di alzarsi dalla poltrona la sera, vincere un po' la pigrizia, la stanchezza, per andare a fare un'esperienza unica, perché di questo si tratta, di un'esperienza di emozioni e di visioni che ti restituiscono sempre qualcosa. Io mi unisco a te e ai direttori artistici, ai protagonisti, al palcoscenico dell'emozione legata al teatro, perché anche il Breakfast Club ha al 100% questo approccio e questa filosofia per quanto riguarda il teatro e la proposta a teatro, per cui restiamo in contatto anche per i singoli spettacoli. Saranno 2 mesi a Crèvecœur, dal 18 gennaio al 20 marzo, all'insegna delle stelle, della musica, dell'amore e di tutto ciò che può essere emozione e valore aggiunto, come ha detto Alex, per arricchirci. Io ti ringrazio tantissimo, ti do appuntamento alla prossima e, come ho detto, seguiremo spettacolo per spettacolo quello che sarà il palcoscenico di Crèvecœur. Grazie mille a voi, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori. A presto. Ciao Alex, buon proseguimento. Ciao. Marrero, Feel Like Making Love, alle 8:25 minuti ci accompagnerà al termine di questa mezz'ora assieme con la rubrica In Scena sui 103.1, il teatro Bologna provincia e non solo, su Radio Città Fujiko ogni venerdì, e non solo, anche nei last minute e al Breakfast Club. A proposito, lunedì ho una sorpresa per voi, per quanto riguarda il teatro e che è una realtà che, come ben sapete, con i 103.1 seguiamo costantemente. Beh, detto questo, poche chiacchiere, musica, pubblicità, poi si rientra e continueremo con In Scena. Do you like making love to you? Do you like making love?